È difficile spiegare a parole quello che sento. Un sentimento che si cela tra pensieri e vento. Soffia veloce e sento un calore immenso. Custodisco in un amore figlio del nostro tempo. Dovrei essere felice di avere quello che ho. C'è chi mi invidia per le cose normali. Io no, non riesco nelle cose semplici e lo so. Ma ciò che cerco è sempre un po' più rock and roll. Voglio la luna che rossa brilla su di un mare in tempesta. Voglio vedere una città sommersa. Ciò che ne resta voglio fare festa. Ma per essere onesta voglio te al mio fianco, perché la gente mi detesta. L'unico a cui dare la chiave del mio cuore, a custodire le prove di una manifestazione. Tu solo al telefono puoi gridare il mio nome. Quando parliamo in questura hanno la registrazione. Non so trovare le parole per questa canzone. Non so scrivere d'amore, non so spegnere il sole. Voglio stare con te, non importa qui altrove. Rock is in love è la mia dichiarazione. Non so trovare le parole per questa canzone. Non so scrivere d'amore, non so spegnere il sole. Voglio stare con te, non importa qui altrove. Rock is in love è la mia dichiarazione. Nel buio della stanza il tuo volto prende forma. I tuoi occhi, le tue mani, il tuo sorriso mi conforta. Si confonde nella penombra di distorta e racconta in attesa che tu apra quella porta. Ogni sorta di ricordo è stile nella sua essenza. C'è chi diventa vittima e carnefice, noi senza catene, tra flirt e convivenza. Ed è la sincronia perfetta, non solo amore e connivenza. L'amore esiste quando la pelle si completa, quando gli occhi si sfiorano ed è subito intesa. Dal terzo bacio non esco mai illesa. La voce rotta, i brividi lungo tutta la schiena. Firenze, Milano, Bologna, Montepulciano. Poi verrà Parigi, Berlino, Tokyo, il caldo messicano. Ma so che conta il viaggio, non conta la meta. Conta che i passi che facciamo siano schiena contro schiena. Non so trovare le parole per questa canzone. Non so scrivere d'amore, non so spegnere il sole. Voglio stare con te, non importa qui altrove. Rock is in love è la mia dichiarazione. Non so trovare le parole per questa canzone. Non so scrivere d'amore, non so spegnere il sole. Voglio stare con te, non importa qui altrove. Rock is in love è la mia dichiarazione. Non so trovare le parole per questa canzone. Non so scrivere d'amore, non so spegnere il sole. Voglio stare con te, non importa qui altrove. Rock is in love è la mia dichiarazione. Non so